La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле еле. Di Carl Shapiro abbiamo già letto la sua poesia più famosa, Università, che cominciava: maltrattare il negro ed evitare l'ebreo, questo è il curriculum. E parlava appunto della terribile atmosfera dell'università, razzista, classista. Io so pochissimo di Carl Shapiro, però c'è una sola cosa, c'è una nota in questo libro a cura di Carlo Izzo, Poesia americana e negra, del 1952, Guanda. C'è una piccolissima nota. Nato a Baltimora nel 1913, lasciò l'università poco dopo avervi messo piede per i motivi dichiarati in questa lirica, cioè la lirica appunto che dice: ma trattare il negro ed evitare l'ebreo, questo è il curriculum. Gli eguali si stringono la mano, i diversi passano ignorati, eccetera. E però oggi voglio leggere un'altra sua poesia che si intitola Nostalgia. La mia anima è alla finestra della mia stanza e io 10.000 miglia lontano. I miei giorni sono pieni della voce severa dell'oceano, sale e nubi e spruzzi amari. Lasciate che il vento irrompa, perché molti dovranno morire. La mia gioventù egoista, i miei libri dall'orlo dorato, sapienza e ogni cosa fissano la strada. Le piante in vaso sopra il davanzale guardano, vite anch'esse, egoiste e tutte dolcezza. Lasciate che il vento irrompa, perché molti dovranno morire. La mia notte è ora il giorno di lei, il mio giorno la sua notte. In verità uno spillo può far sanguinare la memoria, una parola far esplodere l'anima segreta e scoprire i teschi e i fiori mai liberati nell'aria, non più ciechi. Lasciate che il vento irrompa, perché molti dovranno morire. Riso e dolore si danno la mano. Sempre il cuore scalpita nel petto a passi lunghi e grevi. Il viso si fa rugoso come una mappa. Gli occhi piangono sangue, lacrime e marea. Lasciate che il vento irrompa, perché molti dovranno morire. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Aiuto, sono mamma di due bimbi e, forse, moglie. Mio marito è la persona più egoista che conosca. Esiste solo la sua famiglia d'origine. Suo padre, tipico padre padrone, odia le donne e lo mette su contro di me. Litighiamo e lui dice che non prenderò mai il posto di suo padre e delle sue sorelle. Crudeltà terribile, perché io non ho mai pensato di farlo. Volevo solo un posticino d'amore, che non c'è. La nostra vita ruota intorno a questo. Non credo mi abbia mai neppure voluto bene. Vorrei tanto andarmene, ma so che i miei bimbi ne morirebbero. Sono disperata, ma nonostante tutto, amo ancora mio marito. Baba. Ma io non posso tenermi dal citare ancora una volta la illuminante frase di Pasolini: la famiglia è un'associazione a delinquere. Non a caso anche la mafia ha una struttura familiare e le grandi bande si chiamano famiglie. Certo, famiglia può anche voler dire luogo degli affetti, ma non è il vostro caso. Tuo marito ti ha sposata per odiarti, per sacrificarti sull'altare della tribù, sottolineando col tuo martirio la fedeltà al padre e alle sorelle. Avrebbe fatto meglio a sposarsi loro, visto che è comunque rimasto un arido zitello. Ma se tu ami questo mostro, che ti posso fare io, cara Baba? Non c'è una mia parola che possa aiutarti. Tu sopporterai ogni calvario e ti racconterai che lo fai per i figli, perché sennò i figli ne morirebbero e intanto ne muori tu. C'è un romanzo di Balzac che ti consiglio di corsa, si chiama La cugina Bette, dove c'è un personaggio che ti somiglia molto, la bellissima Adeline, che è tragicamente nobile, come te, nell'amore per il marito, che è un libertino incorreggibile, che neanche la vede. Adeline sopporta le infinite infedeltà che le trapassano il cuore senza un rimprovero. ha per lui una tenerezza a prova di offesa e lo giustifica con i figli, con gli amici, sperando che un giorno lui si accorga del suo sacrificio. Ma lui non la vede neanche, lui vede solo le sue voglie e per soddisfarle rovina la famiglia, deruba i figli e la moglie per arricchire le sue amanti. Adeline, ridotta nella più umiliante povertà, continua ad amare quest'uomo che nemmeno la vede. E con l'energia della sua passione non corrisposta riesce anche a ottenere una rendita decorosa e con quella cura con amore il marito ormai vecchio, che sembra però esserle grato. Sembra finalmente accorgersi un po' di lei. E lei è quasi felice. Ha aspettato tanto, ha tanto pianto di nascosto. E adesso avere accanto Crottame le sembra un premio indicibilmente prezioso. E invece si illude, perché neppure questo miserabile brandello di gioia le verrà concesso. Una notte sente dei rumori, si alza, apre la porta e vede il marito a letto, teneramente abbracciato alla giovane governante, mentre le sta dicendo: «Ma io ti sposo!» E lei dice: «Quando, se sei sposato?» E lui dice: «Presto, appena sarà morta mia moglie. Non sta mica tanto bene in salute, sai. Hai visto com'è ridotta?» Come l'ha ridotta lui, tra l'altro. «Ti giuro che non le resta molto da vivere. È troppo.» Stavolta Adelina capisce che è tutto perduto. La delusione la fa malare, la fa morire. Muore e il vecchio porco, appena finito il lutto, senza un'ombra di rimorso, si risposa, ovvero mantiene la promessa che aveva fatto la giovane governante. Ora, sarebbe spiacevole se tu finissi come lei, anche se ho il massimo rispetto per il suicidio e per qualsiasi utopia. Però è misterioso ai miei occhi il fascino dei torturatori, così diffuso. Mi addolora pensare che quell'omaccio volgare dorma con te, si faccia servire, abbia potestà sui tuoi figli. E fra poco comincerà la lotta per accaparrarseli. Il peggio deve ancora venire. Io ti compiango, ma sono lontana da te e da Adeline. Al tuo posto nessuna forza al mondo potrebbe tenermi legata a questo disamorato assassino. Chiederei la separazione per colpa e mi porterei via i figli con un buon avvocato. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. Questo brano che sto per leggere è tratto dal mio romanzo Gelosa di Majakovskij, pubblicato con Marsilio nel remoto 2002, dove una spia innamorata, il gobbo Nikita, segue Majakovskij prima per conto dell'Okhrana, la polizia segreta zarista, e poi per la polizia segreta sovietica. E qui siamo subito dopo la rivoluzione, dove il gobbo, essendo stato uno spia della polizia, è stato nascosto per molto tempo e non vede Majakovskij da un anno. E quindi è molto emozionato. Load up, load up, and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. Fra poco lo seguirò di nuovo. È la prima volta dopo la separazione. Davanti allo specchio mi vesto con la cura di una fanciulla che va da sposa, pure se non dovevo mostrarmi a lui, ma solo stargli dietro, saltando fra omnibus e pozzanghere. Impaziente di volare sulla sua scia, adesso che Volodia era diventato il centro artistico del nuovo mondo, il motore più rombante di quella musica potente e ancora senza partitura, panica e dissonante, che si levava dalla Russia. La rivoluzione ne aveva fatto una star. Quello che faceva o diceva, in un lampo lo veniva a sapere mezzo mondo. E chi era d'accordo e chi no. Il vero segno del successo. Chiunque era con lui o contro. Nessuno indifferente e tutti, amanti e odianti, discutendo di lui, arrivavano allo scontro. Volavano dei gran cazzotti in suo nome. L'intera Pietroburgo, che ora si chiamava Leningrado, si appassionò della lite con Pasternak, che di Majakovskij non sopportava gli entusiasmi rivoluzionari e lo aveva attaccato duramente nel mezzo di una lettura, in pubblico. Volodia, davanti al teatro pieno, gliene aveva dette quattro e poi non pago aveva scritto di lui Pasternak, inferocito dalle cancellature, ritratto in tre parole di un tedioso e studiatissimo scrittore. La città si divise in majakovskiani e pasternakiani. Avevo sentito dire che Majakovskij si muoveva in mezzo a turbe di ammiratori. Invece lo rividi solo e zitto, dentro un cappotto più grande di lui, il bavero su, il cappello giù, più losco di me e più imprudente. Stava seguendo la sua donna, Lily. Cercava di scoprire se aveva un amante. Lei gli aveva detto che andava a scuola di danza, ma lui non ci aveva creduto. Bambino mio, non sei cambiato. Si è un bel rivoltare cielo e terra. Dopo la rivoluzione, Volodia si era ritrovato più geloso di prima. E invece Lily proprio alla scuola di danza stava andando. Nel basso edificio non c'è nessuno, ma lei ha la chiave. Da nascondigli diversi, io e Majakovskij vedemmo, attraverso il finestrone che dava sulla strada, entrare Lily nella sala prove, in tutù. Lily azionò il grammofono tromba. Tchaikovsky, il ballo della Niegin. Lily danza, pesante e leggera. Vladimir la osserva da dietro i vetri con un grande sorriso buono che dice «Ma quanto sono stupido! Sì, è civetta, ma mica avrà un amante sotto ogni mattone!» Ora vado su e le faccio una sorpresa. Proprio allora nel salone entrò un uomo. Ci dava le spalle. Prese Lily tra le braccia. Un bacio da cinema, senza respiro. Il languore di lei e come lo guardava. Con occhi ridenti lo portò dietro un paravento. L'uomo si girò a spegnere la luce. Pasternak! La sua faccia da cavallo, lunga e nitrente amore. Proprio lui. E proprio adesso che lui e Vladimir hanno litigato. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know, a dirty word. Hello, hello. Già da un po', gelosa del suo successo, Lily flirtava con i amici di Volodia. Si era specializzata. Quanto più gli poteva dispiacere, tanto più ci dava dentro. Ci teneva ad essere la donna di Majakovskij, ma non le bastava. Fremeva di protagonismo e lo puniva d'essere un genio. Insomma, proprio ora che Majakovskij e Pasternak erano i ferri corti, lei lo incluse nel libricino delle conquiste, affidato a memoria a Osip Leporello, cioè suo marito, che sulle corna di Volodia faceva un sorrisino da coniglio, ma dentro sghignazzava come un treno. A Majakovskij sarebbe piaciuto che Osip fosse almeno geloso, e la sua indifferenza lo fa dannare. Che umiliazione, saperlo sollevato perché tu fai a sua moglie ciò che lui non le farebbe per nessuna ragione al mondo. E poi non sei manco più il solo, ci sono altri ormai che lo sollevano dall'antipatico dovere. Se ne fregava Osip degli amanti di Lilia, purché qualcuno gliela tenesse buona. Col nuovo regime rimasi di stucco vedendo la nuova Lily Brick. Dopo la rivoluzione d'ottobre, la sua metamorfosi in dama sovietica era stata mirabile e rapida. Peccato solo quel tic che le è venuto. Batte i denti freneticamente, tanto che può fermare il tremito solo con un cucchiaino in bocca, ciò che rende difficile la conversazione. Era un tic dell'avidità. Il mondo nuovo mette tanti appetiti nuovi. Non potendo divorare tutto, masticava a vuoto. Con Osip però riusciva a parlare normale. Si acquetava, come ogni Don Rodrigo, a tu per tu col suo griso. Lily, che noia! Oggi Volodia mi è venuto dietro mentre andavo da Pasternak. Ho fatto finta di non vederlo per evitare una scenata. Ma che vuole? La fedeltà? Ma è matto? Proprio adesso che si parla solo della libertà sessuale anche per le donne, io dovrei fare la figura che sono rimasta indietro. Osip, tu non hai certo bisogno di essere incoraggiata, Lily. No, io sono famosa per essere moderna. Con meno di 3 amanti, oggi una donna è da buttare. A perdere la reputazione si fa in un momento. Osip, lascialo, a me sta così sulle palle. Lily, beh, questo salta agli occhi. Nella vita Osip acclamava Majakovskij come il poeta dei poeti e starnazzava forte, ma poi nei suoi lavori lo citò sino 2 volte, di sfuggita, con la scusa che era troppo vasto. Ma allora nessuno dovrebbe mai studiare Shakespeare né Dante. Osip, insomma, perché non lo pianti? Lily, proprio adesso che è venuto così di moda? E poi sono affezionata. E poi c'è la questione pratica. Hai mai guadagnato un rublo tu, da quando sei nato? Osip, lo odio anche perché ci mantiene. Lily, lo diresti di più se ti dovessi mantenere da solo. Osip, io per liberarmi di lui sono capace di tutto, perfino di andare a lavorare. Lily, non si tratta solo di soldi. Hai presente come vivono gli altri? una vita fatta di sopraffazione, di raccapriccianti furberie per un grammo di farina, una medicina, due foglie di tè, ma non a casa nostra. Qui si vivono i frutti del privilegio. Osip, bel privilegio. Un po' di vodka e due fette di lardo. Lili, modesto sì, ma in questo momento immenso. Sai in quanti sono morti di fame quest'anno? 3 milioni. Grazie a Majakovskij, noi siamo iscritti a pieno diritto nel nuovo stato di cose. Ma che stai qui a ciondolare? Pulisci la casa, avanti. Fra 2 ore arrivano gli ospiti. Delle nostre feste ne parla tutta Peter. Dobbiamo essere all'altezza. E non dimenticare di lucidarti la pelata. E poi si accorgono che Majakovskij non è in casa. E allora Lili spedisce Osip a prendere Majakovskij. Vai, vai, vai a cercare Volodya. Doveva essere già qui. Senza di lui le nostre feste sono come un circo senza gli elefanti. Devo dire che questa frase l'ho copiata da Platinet, che si è sempre definito Moira Orfei senza gli elefanti. Ma Volodya non era lontano, era dietro la porta e aveva sentito tutto. Rimise in tasca le chiavi e scese le scale. E si diresse alla stazione. Gli corsi dietro. E adesso si butterà sotto il treno come Anna Karenina. Il rapido per Mosca sta partendo fra ciuffi di vapore. Volodya andò incontro al treno e balzò leggero dentro un vagone. Meglio di Anna Karenina. Invece di buttarsi sotto il treno, il mio Volodya ci è saltato sopra. Fila verso Mosca. Si è liberato dei brick. Ma chi sono? I suoi ricattatori. Ha pagato la prima rata e da quel momento sarà dannato a pagare sempre? Quella sera il circo restò senza il suo elefante. I brick rimasero a Leningrado con 2 palmi di naso. Dal dispetto Lili batté i denti così forte che le si spezzò un incisivo e la pelata di Osip divenne opaca come una smessa luna. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, how low. La guardiana del faro. Stavo raccontando dal libro Gelosa di Majakovskij, quando Majakovskij per la prima volta si ribella a questo regime, a questo ménage à trois che ha con Lili Bricche e con suo marito, perché non soltanto vivono in 3, ma i 2 fanno comunella contro di lui e vogliono sfruttare la sua fama, il suo prestigio. E quindi, avendo scoperto un'infedeltà di Lili e anche come parlano marito e moglie di lui alle sue spalle, zitto zitto prende un treno e se ne va a Mosca. Bring your friends, it's fun to lose and to pretend she's over. Majakovskij si trova a Mosca, la città più viva del mondo, libero, a 24 anni. Il secolo ne aveva 18 e gli camminava accanto. A Mosca, appena si sparse la voce che era arrivato Majakovskij senza Lili Bricche, le donne si precipitarono verso di lui, come una piena. Lo inseguivano a piedi, in vettura, per telefono, per lettera. Gli chiedevano autografi, figli, baci, ridevano in faccia ai mariti. Una se la trovò nel letto, nuda, che non voleva uscire a nessun costo prima di aver ottenuto soddisfazione e dovette portarla via la forza pubblica. Ci fu un'altra che barattò la razione alimentare per 1 mese, affamando il vecchio padre e 5 fratellini, di cui 1 mutolo, in cambio di pochi cosmetici, per potergli sorridere con le labbra rosse a teatro fra 1000. Ma lui si ritraeva. Il sesso furbo lo rattristava. Aveva bisogno che gli battesse il cuore. E gli batté, nemmeno troppo forte. Appena appena, come la nota dispersa di una musica che si conosceva bene, per Evgenia Lang, piccola e tutta sua, senza Osip nell'altra stanza. Andò a vivere con lei con la rapidità di un bambino che disegni sul foglio a quadretti la casa coi gerani alle finestre, il gatto e il comignolo che fuma. Questo gli era crudelmente mancato. Con Lili. Voleva giocare agli sposi. Portò Evgenia in braccio attraverso la porta, come in un film americano. Un sogno infinitesimo, un sogno minuscolo, borghese. Sì, lui, il figlio del sole. Li spiavo con un senso di pace. Anch'io nel foglio quadretti, disegnato con un garofano all'occhiello da padre dello sposo, il giorno di quelle nozze di carta. E intanto i Brick sono rimasti a Leningrado. Da Leningrado Lili fa il muso e suo marito Osip, anche lui, come il gatto di casa, abituato a rifare le mosse della padrona. Lili non scrive a Majakovskij, è fredda al telefono, meno male. Ci mancherebbe che venisse a rovinargli la festa, proprio ora. Ha tanto da fare a Mosca, Volodia. Per prima cosa ballare il tango, con una rosa fra i denti. Detesta Rodolfo Valentino, al quale il maleducato assomiglia. Per evitare che Lili, indispettita, gli faccia magari una sorpresa, fa finta di desiderare una sua lettera. Pare che muoia senza una lettera. Invece se la cava benissimo nell'western della rivoluzione. Gioco d'azzardo, pistolettate, bellezze. Ma soprattutto a Mosca, nel 1918, Volodia incontrò il cinema. La più majakovskijana delle arti. Tutto si realizza insieme. Parola, musica, immagine. Lui stesso recita, raddoppiarsi, rideva come un bambino. Attore, sceneggiatore, quei ragazzi sapevano fare tutto. Si rimboccavano le mani e facevano, come niente, dei capolavori. Il suo primo film fu Non nato per il denaro, che era ispirato al Martin Eden del suo Jack London. Ora che era anche un divo dello schermo, le sue ammiratrici diventarono pericolose. Per salvarsi, Majakovskij doveva uscire travestito. Vi furono episodi incresciosi. Sull'Arbat una ragazzina lo ravvisò in un barbone gigantesco. Gettò un grido d'allarme e all'istante un'orda di donne spogliò il barbone fino ai calzini, che poi non era Majakovskij. L'eco dei disordini giunse beffarda fino a Lili, che scoppiava d'invidia. Cosa? Come si permette di fare il divo alla faccia sua? Lo deve fare con lei il cinema, se no che smetta. Lili vuole i riflettori, vuole stare sulla locandina. Vuole che gli uomini si ammazzino per lei fra loro più che per la rivoluzione. E poi, indispettita, si rivolge al marito. E tu, Osip, non dici niente? Osip inveisce a comando, ma se ne duole poco. È Lili che grugnisce e rosica. A lui una sola ambizione, frulla maestosa e pazza per la gran testa vuota. Conquistare Yakov Agranov, braccio destro di Felix Dzerzhinsky, il capo dei servizi segreti. Un vero potente, che ha in mano vita e morte di qualsiasi cittadino, sopraffattore e assassino, ma anche giovane elegante che sa di letteratura, parla francese come un personaggio di Tolstoi e va terribilmente di moda. Osip gli fa la ruota. Nella danza d'amore cerca di abbagliarlo col suo sapere e leccate di culo squisite e lievi come fiati d'angelo, sperando che un giorno quella stella possa risplendere a un ricevimento a casa Brick. Ma è difficile senza Majakovskij. Da quando è andato a Mosca, loro sono rimasti come pavoni senza coda. Osip, sai che c'è Lilia? Hai ragione. Quello è ora che torna. E se non torna, lo andiamo a riprendere noi. Lo riconquisterò, disse Lili, cupamente. Prima mettiti a dieta. Sembri un panettone. Lili smise di mangiare e non badò a spese. Ordinò a Parigi, tramite la sorella, 10 toilette nuove e altrettante camicie da notte di Barry, mettendo tutto in conto a Majakovskij. Carico di cipri, veli e ferme intenzioni, il duo Brick si precipitò a Mosca come un fulmine. Però, all'arrivo, con molto allarme da parte di questa coppietta, non trovano un Majakovskij sottomesso come era prima, perché l'amore con Evgenia Lang lo aveva fortificato e questa volta non sarebbe stato così facile rimetterlo nel sacco. Ma Lili ci si mise d'impegno. Lo sedusse scientificamente, sfiorando i ricordi e dandogli tutte le certezze che gli aveva sempre negato. Lo sedusse con una freddezza da gran puttana. Lei, che già da un bel po' gli rifiutava il suo corpo sazio di altri incontri, o si concedeva sbuffando, o, peggiore oltraggio, la buttava in scherzo per smontarlo, stavolta, viste le brutte, si unì a lui semplicemente, come una donna con un uomo. E in lei lui si ritrovò, senza equivoco, la sua amante. Per prima, la sola. Piacere e amore congiunti. E l'altra dov'è? Sparita d'un botto? No, no, c'è. C'è ancora Yevgenia, in un angolo sperduto di Volodia. La teneva in una finestrina della mente, che ogni tanto si apriva come un cucù e veniva fuori la sua cara faccia. C'è ancora la piccola Yevgenia, che chiama piano Volodia, e a forza di aspettarlo, nella sua casa a quadretti, si è fatta bianca come una bambola morta. I'm worse at what I do best, and for this gift I feel blessed. A little room has always been and always will until the end. Con acutezza padronale, Lili intuì quel sogno e giocò la grande carta, il sogno di Majakovskij, il matrimonio. Gli disse: sposiamoci. Lui non si fidava. Chi? Noi due e tuo marito? Noi due soli. Basta con gli scherzi. Voglio essere tua moglie. Gli sarebbe stata fedele. Avrebbe lasciato il marito. Zac, di nuovo nel sacco. Majakovskij si liberò di Yevgenia con una crudeltà superflua, come se Lili fosse presente e potesse approvarlo. E la offese rinnegando tutto. Lei gli chiese: perché non dite che mi amate? E lui: io non vi amo. Io amo Lili. Le altre? Posso amarle bene o meno bene. Preferite la prima maniera o la seconda? Yevgenia: preferisco niente. E scomparve. Lili ottenne ciò che voleva. Majakovskij si buttò a scrivere un film su di lei, per lei, un piccolo monumento alla sua vanità. Tanto a lei interessava una sola cosa: mettersi in tenuta da ballo, e fu accontentata. Ed eccolo insieme ai protagonisti di Prigioniera del film o Il cuore dello schermo. Però una volta fatto il film, Lili cominciò a rimandare il matrimonio e anche la separazione dal marito. Anzi, provò a convincere Volodia a mettere su casa Mosca con lui, cioè tutti e tre di bel nuovo, così dividiamo le spese. Adesso mio marito qualcosa guadagna. Infatti, Linetta Osip Brick aveva trovato un lavoro, un buon lavoro. Faceva la spia per i servizi segreti. A forza di danzare per Agranov, era stato assunto alla CK. Lili l'aveva scelta apposta la casa in via Valopian, a un passo dalla Lubianca. Ufficialmente Osip era consulente legale, ma in verità teneva aggiornata la polizia sugli amici più stretti. Artisti, letterati, li conosceva tutti, e Majakovskij per primo. Quando Majakovskij si sentì riproporre la convivenza con Osip Brick, fece un salto che diede di testa sul soffitto e sentì un frullo di nostalgia per Yevgenia, quasi un palpito. Lili sorrise di amore professionale. Qui Majakovskij si impuntò. Non voleva più essere truffato. Cercò Yevgenia, che gli tenne il muso con illimitata durezza per 2-3 secondi. Poi gli si gettò tra le braccia come un agnello alla madre. Majakovskij decise: sto con lei e basta con gli impicci. E poi, invece, venne ripreso nel vortice Brick. E come Lili aveva programmato, si fecero una nuova casa a Mosca, tutti e tre insieme, e all'inaugurazione ebbero il grande onore di poter ospitare questo assassino di moda, Yakov Agranov. E così inaugurarono la casa nuova in tre, con un grande ricevimento. Majakovskij aspettava quella serata con emozione. Era la festa prenuziale, era la festa del suo ritrovato amore con Lilia. Vennero Pasternak, Malievich, Gorky, Bertov. Gli buttavano le braccia al collo e lo baciavano sulla bocca. Ma ad un tratto si accorse che il festeggiato era un altro. Quando entrò Yakov Agranov in alto uniforme, gli invitati lasciarono cadere Volodia come un pupazzo e volarono intorno a lui ronzando a mo' di api. Osip era un appassionato di torture. Ci teneva ad assistere agli interrogatori, alle botte, ai supplizi. La sua impotenza ne traeva una squisita delizia. E, insomma, pare che grazie a quell'afrodisiaco dopo tanti anni possedesse ancora Lilia, all'insaputa di Majakovskij. Essere cornuto del cornuto, oh miseria, ci mancava solo questa. In quell'allegra serata, Brick parlò assai meno di meccanismi letterari. Preferiva raccontare, ridendo, di come aveva visto gonfiare un uomo d'acqua o torcerlo sotto le scariche elettriche. Lo trovava di una comicità irresistibile. Questa mania morbosa e repugnante era condivisa da Agranov. Il loro duetto sull'argomento fece tacere ogni altro discorso. C'è un flirt fra loro, fidanzati tramite tortura. Le grida dei disgraziati, colonna sonora di una passione. Tanti anni dopo, da vecchia, quando sarà una cavalletta liofilizzata, dopo i libri di Solzhenitsyn, Lili dirà col suo bamboleggiamento spettrale: «E pensare che per noi una volta i cechisti erano dei santi?» «Ma come? I racconti di Osip?» «E Majakovskij?» Stava lì buono a sentire, non protestava. La rivoluzione era la sua bravata, da difendere a tutti i costi. Più volte scrisse in versi l'elogio della polizia segreta: «La GPU è il pugno chiuso della nostra dittatura. Custodisci strade e fiumi, prendi il nemico, carpisci i segreti e tutto nascondi, o controspionaggio». Dispiace molto, devo dire, ancora oggi, il Majakovskij da caserma, quello che cantava gli orrori come se fossero delle cose belle. Dopo la festa, geloso, interrogò Lili. «Ti piace, di, ti piace?» «Ma chi?» «A Granov. Da quando è entrato lui non ti sei più accorta se ero vivo o morto. Bella inaugurazione, l'inaugurazione di un nuovo amante». «Ma no, figurati!» In quelle U, che si snodano come un treno di baci, Majakovskij riconosce la vile commozione femminile per il potere, lo sdilinquimento di ogni umore davanti a un uomo che ne comanda altri, non come lui, dal palco, con la fragile tirannia dei versi. No, li comanda fisicamente e può decidere se farli morire di frustate o di sete. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Mi viene da vomitare se penso alla zona dove abito. Anche il fidanzato tutto tenerezza che mi sono scelta in alternativa al suicidio, con cui ho fatto l'amore per la prima volta dopo 8 anni. Anche lui ha sti genitori cattolici finto comprensivi. In confronto ai miei amici sono povera, ma soprattutto ho un padre artigiano con cui lavoro da 2 anni cucendo borsette meravigliose per signore merdose, e una madre troppo dolce, con certi occhi chiacchieroni e un'ex bellezza da mantenere. Tra i miei tanti difetti ho quello enorme di amare i miei genitori e la zia sorella cicciona e infelice in un modo morboso, sempre carico di rimpianti. Siamo una famiglia ultrasensibile, ma senza librerie, senza ingresso di servizio. Io potevo accontentarmi del babbalone che ho sempre conosciuto, e nonostante la sua famiglia mi adora da sempre, ma nel suo modo malato, da Edipo. Ama in me sua madre, finto interessante coi suoi 4 maschioni di figli, il marito alto dirigentissimo. Ama in me tutte le donne in generale. E passa delle ore a leccarmi mentre io muoio di noia e di nostalgia per l'altro, il mio angelo bastardo, che mentre mi stringeva mi insultava. Non so come fare. Suo padre sta morendo di tumore, anche se è un professore di fama mondiale, e io una volta sono passata sotto casa sua e l'ho abbracciato mentre lui piangeva, ma volevo essere la sua ragazza, non il suo salvagente. Non gli ho più telefonato, anche perché sono tutti in Olanda per la terapia del padre. Ho preso finalmente la maturità, poi andrò all'università, ma ho paura che sia solo per somigliare a sti borghesi schifosi. Lo sai che coi soldi i figli dei figli si comprano anche la cultura, le cose belle, le mostre, i viaggi. Io sono stata solo in Sardegna, ma vorrei andare in Svezia. Quante borse dovrò cucire ancora? Vorrei ancora essere la sua puttana. Roberta. Basta, Roberta. È indecoroso anche volere tutto. Le scelte si pagano. Vuoi l'amore? Molla il leccatore, col quale sei avviata a un brutto matrimonio. E prendi la strada della Svezia o di dove ti pare, purché sia un po' battuta dalla verità. Una intelligente come te, sempre a guardarsi l'ombelico, a vomitare, china sulla borsetta, torvamente odiando chi la porterà. Io le tue borsette non le vorrei manco in regalo, perché sono concepite in uno scontento rimescolio che si è certo attaccato alle fibbie, alla pelle, alla fodera. Se fosse solo una dimenticanza, ti ricordo che esiste anche la vita, oltre a rimuginare su di essa. Se non si diventa professionisti, romanzieri di romanzi. E lì tutto trova una ragione, e anzi, è un grande pretesto letterario la straniera leccata dal fidanzato e tutti quei finto qualcosa. Scrivi benissimo. Come si fa? Non lo so. Però so come non si fa. Non si fa che non si possa guardare negli occhi la persona che ci lecca. È il minimo. Cara Barbara, sono un ragazzo straniero di 30 anni. Ho vissuto una bella e piacevole storia d'amore clandestina con una signora italiana sposata di circa 50 anni. Dopo 2 anni mi ha lasciato, secondo me per un altro ragazzo italiano molto più giovane di me. Lei dice che tra loro esiste solo un semplice legame d'amicizia. Ho molti dubbi, perché li ho visti uscire insieme tante volte e frequentando la stessa sala giochi li ho visti sempre seduti vicini. Dopo l'ultima volta che li ho visti insieme, ho sfogato la mia rabbia mandandole un SMS e dicendole di non rivolgermi più la parola e di cancellare il mio numero di telefono. Da allora è passata tanta acqua sotto i ponti, ma lei non si è fatta più sentire. Mi manca molto, ma non oso prendere iniziative. Mi dai qualche consiglio? Rimini, TD. Sì, un consiglio te lo posso dare. Lascia perdere. Questa Don Giovanna probabilmente è una collezionista e ti ha preferito un altro. Ha colto il tuo SMS al balzo e ha approfittato per scomparire. Tu hai usato un tono così furioso, così geloso, così indignato, che se lei avesse avuto 0,0001 di interesse nei tuoi riguardi, si sarebbe fatta viva subito. Avrebbe cercato di calmarti, di riprenderti. Ma è meno male che non l'ha fatto. Vuol dire che non è una seduttrice beffarda e che non vuole tenerti in suo potere. Vuole proprio liberarsi di te. E in questa chiarezza almeno c'è un principio di onestà. Anche se poi ti mente nel rapporto con l'altro perché giustamente non vuole consegnarlo a te, che ne saresti geloso. Ma una domanda, scusa, cosa ti lega a lei? Il dispetto, la rabbia di essere stato messo da parte? O sei veramente ancora attaccato a lei? L'unica remota, ma molto remota, speranza che ti ricerchi è di non cercarla più. Magari all'inizio ti ha voluto bene, sei stato importante, ma poi sei diventato qualcuno che si poteva cambiare. Se vuoi un amaro pensiero consolante, ti puoi dire che forse ha a che fare con la sua età, anche se oggi i 50 anni non sono più quel grande spauracchio per le donne, perché, come ho detto più volte, le più belle donne del mondo oggi hanno 50 anni. E non soltanto le dive, ma anche tante che incontri per la strada. Alcune però imitano i maschi, che inseguono la giovinezza abbassando sempre di più l'età degli amanti. Sai, il brutto TD, come ti firmi con le tue iniziali, il brutto di una fine sono le ipotesi infinite che si fanno. E se lei invece si è offesa per il tuo SMS, mi mettono i tuoi panni, eh? Ma senti, tanto non hai niente da perdere. Visto che ci stai male, invece di scrivere a me, scrivi a lei. Un altro SMS, il contrario dell'altro, con due parole che hai scritto nella lettera alla guardiana del faro. Mi manchi. Se non ti risponde, anche tu non sei un bambino, hai 30 anni. E c'è una cosa che è ora che tu impari, che quando è finita. Salvo le intermittenze del cuore, gli improvvisi ritorni. Meriteresti la poesia di Andreadi, Canto di liete esequie, però l'abbiamo già letta tante volte, ti prego cercatela su internet, dove dice beato chi seppellisce con lietezza. Forse è ora. Carissima Barbara, non potevo che scrivere a te. Io 31 anni, lui 54, e il problema non è solo questa bella differenza d'età, e ribadisco bella non in senso ironico, ma positivo, perché credo che il nostro stare bene insieme sia anche grazie ad un perfetto mix dato proprio da questi anni che così tanto sembrano dividerci, ma invece ci stanno unendo da un anno e mezzo. Vengo al dilemma. Ho paura del futuro che mi aspetta insieme a lui, di quando avremo, se, dei figli, e lui sembrerà un nonno. Di quando io avrò 40 anni e lui sarà pensionato. Di quando forse l'amore non sarà più come ora ed io potrei vacillare cercando altrove un appoggio. Già ora il presente non ci sorride, per la distanza che ci separa, per il poco tempo ritagliato che mi dedica quando non deve accudire la madre malata. Lui è un uomo meraviglioso, ma quando gli ho parlato di queste mie paure, ha saputo rispondere solo che ho ragione. Che lui non mi può dare ciò che merito, che sono bella, giovane e intelligente e devo farmi una vita con chi più di lui mi può rendere felice. Dada. Se hai scritto per essere rassicurata, caschi male, perché nessuno può farlo. È impossibile, nessuno è garantito se non dalla forza della propria passione. E tu non è che ne hai tanta. Come si fa ad amare così ingenerosamente? Tanto varrebbe non amare. E così schematicamente rovinare una storia che dici viva per delle ipotesi morte. Hai enumerato tutti tutti i luoghi comuni sulla differenza d'età che ti direbbe un amico o un padre poco illuminato. Tu non gli vuoi mica tanto bene a quest'uomo. Chi ama teme, per forza, ma sogna anche, costruisce mondi. La tua non è un'immaginazione d'amore. Vedi solo la decadenza. A 31 anni hai un'immaginazione da pensionato disperato, non da innamorata. Mi ricordo quando da giovane ho amato qualcuno molto più vecchio, ma molto più vecchio del tuo fidanzato di adesso. Io 19 anni, lui 60. Ma la mia paura non era che diventasse vecchio. Già lo era. La mia paura era che guardasse un'altra, che mi lasciasse, che si stancasse di me. E anzi, speravo che invecchiasse più in fretta possibile, per amare io da solo alle sue rughe, perché diventasse meno attraente per le altre. Perché quando ami, l'amato ti sembra il centro del desiderio universale e credi che chiunque altro lo vorrebbe come tu lo vuoi. Non lo guardi come uno che presto sarà un peso. Se lo guardi così vuol dire che già lo è. La tua è una dichiarazione di non amore, di egoismo, di prudenza. Secondo me sei stufa. È molto più triste di quello che ti immagini la situazione presente con quest'uomo che non è libero, che deve anche badare ai suoi vecchi. E forse questo che è poco erotico per te. Ma allora se sono tragedie reali di oggi, non travestirle da tragedie future. Se ti immagini adesso che hai 31 anni, a 40 anni, innamorata di un altro, perché lui ne avrà 60, se non lo ami fra 10 anni, non lo ami nemmeno ora. A parte che oggi un uomo a 50 è un giovanotto, ma tu lo vedi già cadente. E poi, quando gli esprimi questi dubbi, ti meravigli che lui ti dica, che poi sono un segno di rifiuto, e ti meravigli che lui ti dica, rassegnato, non posso darti ciò che meriti. Per forza, non fa che ripetere le tue parole, te le ributta contro. E che potrebbe dire di diverso lui, che è la parte più debole, che tu stai trattando come una zavorra prossima avventura e quindi una zavorra oggi. Tu lo metti in condizioni di debolezza. Tu gli dici, sei troppo vecchio per me, perché sei tu quella che calcola, quella che fa i conti, sei tu la più giovane. Se tu stufa ora, che ti immagini stufa domani, ed è lui che resterà solo, perché tu l'hai già lasciato a metà. Non ha in suo potere diventare più giovani, né far morire i suoi genitori per amarti meglio. E se dice vai, se vuoi, forse è meglio, perché anche non è in tuo potere amarlo in modo assoluto, invece che un po'. E un po' è peggio di niente. Non esiste l'assoluto meno un pezzo. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.